Come fai? Ad abbracciare rocce, fredda ogni mattina, come fai? A raccogliere le briciole di pane dai suoi piedi, forse sai. Fare a meno del tuo nome, come fai? A stare lì seduta, ad ascoltare la sua musica, stanca di suonare. Lui che non vede la tua fame, di sentirti bella, di essere normale. Scale che portano al viale, fuggirai dal suo odio senza senso, dall'alito pesante della sera quando torna, vedrà sua madre pazza che fa la ragazzina. Stordisci le tue braccia.